parlo di un viaggio nelle strade. Guardo la gente in faccia e mi chiedo cosa accade. Tra chi si mette in posa a sfoggiare i suoi vestiti e chi fa il figo con la tipa e va travestiti. Quello che arriva con l'auto rossa del papà e non ha soldi per la benzina e resta là. L'apparenza rende grandi a chi vuoto dentro, quindi mi sono indifferenti se li incontro. Lascio un sorriso perché alla fine non ho altro. Se li vedi non si distinguono l'uno dall'altro. Sarà forse il mio percorso o la mia strada. Sono naufrago di una vita affondata tra chi si maschera di realtà ed apparenza e capire chi è con una quintessenza. Il mondo non è inizio e nemmeno una fine, finché c'è questa gente esploderemo come mine. Ehi tu, hai capito di cosa sto parlando? Della tua apparenza ma in un modo blando. Io non so cosa farai, sì, della tua vita e condisci la di realtà che inizia la salita. Ricorda sempre che ogni castello di sabbia se li può affermare e non lascia traccia. Fortifica dentro te ciò che sei davvero e fai vedere al mondo intero ciò che hai di vero. Sarò stato troppo crudo o forse reale, ma di tutto questo intorno a noi fa male. Perché spesse volte chi cerca di apparire va via da questa realtà che lo vede fallire. Magari quello che per non sentirsi inferiore dà vita a tanti debiti per sentirsi migliore. Parlo del carattere fragile della gente che si trova spesso a secco per un niente. Io non ti dico di non poter cambiare mai, ma di farlo con il vero che tu dentro hai. Pirandello dice che siamo tante maschere, indossa quella del vero per poter crescere. L'apparenza prima o poi conoscerà la fine e poter guardare la tua vita senza spine. Resto qui su questo muretto per ammirarvi e che queste metriche possono arrivarvi. Ehi tu, hai capito di cosa sto parlando? Capisci? Della tua apparenza ma in un modo blando. Sì. Io non so cosa farai, sì, della tua vita e condisci la di realtà che inizia la salita. Inizia. Ricorda sempre che ogni castello di sabbia se li può fermare e non lascia traccia. Fortifica dentro te in ciò che sei davvero, sì. E fai vedere al mondo intero ciò che hai.